e vediamo se con questa introduzione musicale sono riuscita a darvi un indizio di quello di cui parleremo oggi. Questi erano i New Order con Blue Monday. Siamo pochi minuti dopo mezzogiorno di mercoledì 26 febbraio. Quella che state ascoltando è L'Orda d'Oro, la trasmissione di Radio Onda Rossa dedicata all'Asia Centrale, e ci state ascoltando in diretta sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9. Se ci state ascoltando in differita, invece, probabilmente lo state facendo dal sito ondarossa.info, dove potete anche trovare i vecchi episodi di questa trasmissione. Questa trasmissione che appunto si trova ospitata da Radio Onda Rossa, una radio libera che da quasi 70 anni funziona senza ricevere finanziamenti di alcuna sorta per conservare la propria indipendenza, una radio che ha preso questa scelta, che ovviamente all'Orda d'Oro ci sentiamo di condividere, altrimenti non saremmo qui. E quindi se potete, se volete, considerate di sottoscrivere quest'anno sul sito ondarossa.info, potete trovare le informazioni se volete far parte della campagna di sottoscrizione. Avete avuto almeno un minuto e mezzo per pensare, riflettere su quello che potrebbe essere l'argomento della puntata di oggi. Se non vi è venuto in mente niente, ve lo dico io: oggi parliamo del colore blu. E quindi dopo la nostra sigla Beach Machine di Subsonic Voodoo andiamo a ritrovarci e cominciare. Ai microfoni c'è Strelka e questa è L'Orda d'Oro. Avete pensato il blu è il mio colore preferito, non siete le uniche. Ci sono dei sondaggi di marketing, almeno per quanto riguarda l'Europa e gli Stati Uniti, che dimostrano che il blu è il colore preferito dalle popolazioni di questa parte del mondo, senza distinzioni di genere o di livello educativo o di classe sociale, per cui gli europei amano molto il blu. Il motivo per cui vi parlo di questo colore nel contesto di una trasmissione dedicata all'Asia centrale, che questa regione del mondo ha giocato un ruolo fondamentale nello sviluppare la capacità tecnologica degli esseri umani di produrre il blu, perché il blu è un colore molto raro in natura. Potreste star pensando a questo punto in che senso è raro in natura: il cielo e il mare sono di colore blu, e io vi dico, tenete a mente questa obiezione, ne riparliamo tra un po'. Però dal punto di vista del pigmento del colore blu, quindi cioè il colore blu come oggetto, no, ideale, isolato gli oggetti fisici a cui si lega, il blu non si incontra spessissimo in natura. Per esempio, meno del 10% tra piante e animali sviluppa il colore blu. Per capire la discussione che faremo un po' più avanti, ci serve capire anche qual è il modo in cui il nostro occhio percepisce il colore blu, e quindi io ora cercherò di darvi una spiegazione fisica con tutte le limitazioni del caso. Sapete che il nostro occhio vede, cioè i colori sono una manifestazione di quello che il nostro occhio riesce a riconoscere su un campo di onde elettromagnetiche, per cui il colore blu e il colore rosso, potete pensare a questi due colori come a due pezzi, cioè due sezioni, no, di uno spettro di luce, che variano a seconda della quantità di energia che dello spettro, per cui il blu è la parte dello spettro con l'energia più alta, mentre invece il rosso è la parte dello spettro con l'energia più bassa. Questo tra l'altro è il motivo per cui potreste aver incontrato questo concetto concetto se siete persone che magari hanno problemi a dormire e vi è stato detto di non guardare gli schermi 2 ore prima di andare a dormire perché mettono la blue light. La blue light è una luce a tono freddo molto forte quindi dà più problemi a stabilire i ritmi circadiani per il sonno. Quindi questa è l'idea, no? Il blu è la luce più calda, il rosso è la luce meno calda. Per me antintuitivo questo concetto, perché rosso e blu invece sapete che come colori nella descrizione, no, dei termini di colori si invertono. Però importante sapere che il blu è la parte dello spettro visibile dei colori che è più caldo, perché spiega il motivo per cui non è particolarmente presente né all'interno né nel mondo animale né nel mondo vegetale. Il colore degli oggetti è dato dalla quantità di luce che riflettono, cioè il colore che vediamo è quello che viene riflesso di più. Per cui se voi vedete un animale o una pianta con colore blu, significa che stanno riflettendo quella parte di onde. Dal momento che il blu è triggerato che il riflesso del blu è triggerato dalle onde più calde, evolutivamente non è vantaggioso rifletterlo, perché se siete una pianta avete bisogno di assorbire più calore possibile, e anche se siete un animale potrebbe non avere senso riflettere la luce più calda che riuscite ad ottenere. E infatti la maggior parte delle piante e anche degli animali di colore blu si trovano in parti del mondo molto calde. Nelle piante, per esempio, fiori e foglie blu si trovano soprattutto nelle zone dei tropici, e di solito si trovano in quelle piante che fanno da tetto al resto del sottobosco, per cui l'idea è che se queste piante crescono in zone del mondo in cui diventa invece anzi problematico il contrario, cioè c'è troppa luce, le foglie blu sono quelle che vi permettono di schermarne di più. Dal punto di vista degli animali, quindi, dovete c'è invece una necessità, no, di fare un trade-off. Per cui è vero che riflettere il blu significa assumere molto meno calore, però invece rifletterlo può avere dei vantaggi dal punto di vista evolutivo, sia perché richiama dei potenziali compagni, per cui questo è per esempio il caso del pavone. Il pavone ha questa coda bellissima di colore blu sgargiante, perché il maschio in questo modo richiama le femmine della sua specie, o potrebbe invece funzionare nel modo opposto per far scappare i predatori, perché il blu è un colore strano e quindi viene associato alla pericolosità, e questo è il caso per esempio della tarantola blu, che se avete paura dei ragni non andate a cercare questo animale, perché è terrificante per me, penso che mi abbia tolto il sonno per un paio di giorni. Quindi spero di essere riuscita a spiegarvi questo argomento di fisica in maniera abbastanza chiaro, quindi sappiamo che tutto questo era per dirvi che il colore blu in natura è dovuto a un riflesso della fisica, della luce fisica. C'è soltanto un animale che pare invece sia blu per dei pigmenti chimici che produce, ed è una farfalla, si chiama la farfalla ubrina, e sembra essere l'unico animale che invece utilizza la chimica per essere blu. Questo significa che quindi al mondo non ci sono tantissimi oggetti che ci permettono di estrarre questa tinta. Quindi gli esseri umani fin dall'inizio dei tempi devono trovare una maniera di estrarre questa tinta, e lo possono fare solamente dalle pietre all'inizio. C'è una storia, cioè il blu viene chiamato in storia dell'arte il colore umano, perché è un colore che appunto riusciamo ad ottenere e ad utilizzare nel mondo artistico solamente quando la capacità di produzione tecnologica di una società diventa particolarmente forte. E devo dire, a me affascina molto questa idea, perché perché ci sono proprio delle, cioè nello sviluppo, no, storico delle diverse sfumature di blu si può proprio mappare, no, la capacità di produzione tecnologica e come cambia la nostra capacità di umani. La prima forma di blu che viene sviluppata abbastanza presto, nel 3300 avanti Cristo in Egitto, nella città di Menfi, ed è poi un sistema che viene passato nel mondo antico, lo acquisiscono i Romani, e viene poi utilizzato anche nel Golfo di Napoli, quindi in Italia il punto dove si produce questo tipo di colore blu diventa la zona di Napoli. È un blu artificiale che viene fatto da un mix di sabbie mescolate a rame e bronzo. Viene formata una specie di impasto, si mette in una fornace a 1000 gradi centigradi, si solidifica in una specie di palla e poi questa palla viene pestata, e questa è una forma di blu che gli egizi chiamano il lapislazzulo artificiale. Il lapislazzulo è una pietra semipreziosa di colore blu che invece è l'originale e che è assolutamente carissima, perché ci sono poche aree del mondo in cui viene prodotta e quasi tutte queste aree del mondo si trovano, all'epoca si trovavano, adesso si sono scoperti altri giacimenti, ma all'epoca si trovavano in Afghanistan. Quindi la maggior parte delle miniere di lapislazzuli presenti al mondo si trovano tra l'Afghanistan, l'Asia centrale e le miniere attorno al lago Baikal in Russia, in cui tra l'altro si trova il lapislazzulo viola anche, che è una varietà di un pochino diversa, con un colore bellissimo, pietre meravigliose, però appunto molto difficili da trovare, molto difficili da pulire e molto difficili da trasportare, per cui fare frammenti di lapislazzuli non è particolarmente economico, e si sviluppa questa tecnologia invece del lapislazzulo artificiale. Questo è quello che viene chiamato il blu d'Egitto. Il blu d'Egitto viene utilizzato fino al 400 d.C. A questo punto l'impero romano viene sconvolto, come sapete, da una serie di riassestamenti, diciamo così, si perde la tecnologia e quindi nei primi anni del Medioevo non si sa come produrre il colore blu, che diventa quindi rarissimo. Nel 500 d.C. iniziano ad arrivare in Europa una serie di notizie, cioè dovute, no, a connessioni con i mercanti, che in una valle dell'Afghanistan chiamata Bamiyan sono state costruite delle statue di Buddha con un colore blu molto vibrante, molto strano, perché il colore blu che viene prodotto dagli egizi in realtà è un po' più vicino al grigio di quello che noi chiameremmo blu, per cui cioè, la tonalità esiste, però non è il blu vibrante elettrico a cui siete abituati voi. Nel 500 d.C. in Afghanistan invece si riesce a produrre questo tipo di blu. Questo tipo di blu viene chiamato ultramarino e diventa molto ricercato in Europa. In Europa arriva in realtà qualche secolo dopo, arriva a Venezia nel 900 d.C. Si chiama ultramarino perché viene dall'altra parte del mare, perché deve arrivare con appunto le caravane, no, che arrivano dall'Asia centrale, e questo blu ultramarino è fatto con i lapislazzuli originali, quindi questo è fatto con queste pietre blu semipreziose. La tecnologia di trasporto in questo momento della storia è molto più semplice, la tecnologia con cui pestarli diventa, di pestare queste pietre, frammentarle, diventa più disponibile e quindi è un po' più economico che precedentemente, però è sempre un sistema di produzione del blu che è carissimo. I lapislazzuli si trovano già all'interno delle tombe del Neolitico nel Caucaso, per cui sappiamo che in tutta la zona dell'Asia centrale comunque venivano utilizzati già all'epoca come sistemi, no, per marcare l'importanza e la ricchezza di una famiglia, però non si è mai espanso il loro uso oltre l'Asia centrale, l'Afghanistan e il Caucaso. A questo punto della storia, quindi quando siamo più o meno attorno all'anno 1000 in Europa, iniziano invece ad arrivarci più lapislazzuli e con i lapislazzuli iniziano ad arrivarci anche i termini con cui queste popolazioni di questa parte del mondo chiamano queste pietre. Il termine azzurro in italiano deriva dal termine per il lapislazzulo persiano che è l'ajaward, attraverso l'arabo l'azaward, che significa, cioè, che appunto è il nome di questa pietra, diventa poi azur in inglese e azul in spagnolo, che è il termine invece per il blu vero e proprio, mentre per noi italiani è una specifica varietà di blu. Avremo modo di parlare dei termini di blu abbondantemente nella seconda parte di questa puntata. È un colore che diventa particolarmente ricercato per la sua ricchezza, il suo costo, e all'interno della cultura dell'Asia centrale inizia a ricoprire un valore spirituale particolare con l'arrivo dell'Islam. Quindi l'azzurro, il blu, è il colore della spiritualità perché è il colore del paradiso, è il colore della religione, della serenità, tranquillità spirituale. E inizia a essere integrato nelle piastrelle che vengono utilizzate per costruire le moschee di questa parte del mondo. Abbiamo già detto altre volte che le moschee dell'Asia centrale e dell'Iran sono particolarmente famose per l'uso molto ingente che hanno del colore blu. E ci sono appunto tutta una serie di costruzioni molto famose. Vi metterò un link a quelle che sono secondo me le. Cioè, c'è un articolo molto bello che ho trovato con l'elenco di quelle che sono a mio parere le più belle moschee di questa parte del mondo e avrete modo di notare qual è l'uso che si fa appunto del colore blu, soprattutto nella zona esteriore, perché invece penso che la moschea blu di Istanbul sia famosa perché usa queste piastrelle all'interno, mentre invece nell'arte centroasiatica, soprattutto in Uzbekistan e anche poi nel sud del Kazakistan, le piastrelle blu vengono posizionate all'esterno e quindi sono più esposte alle intemperie, come potete immaginarvi. La città di Samarcanda, che è famosa per la quantità di piastrelle blu che ricoprono tutte le sue costruzioni, affascina moltissimo i visitatori perché ancora oggi è possibile andare e veramente vedete queste piastrelle, no? Queste decorazioni che hanno dei colori vibrantissimi, che sono però state oggetto di un restauro molto forte da parte dei sovietici negli anni 70 e 80, per cui quello che vedete oggi a Samarcanda, così come a Kiva, così come a Bukhara, anche se Bukhara ha meno blu, Bukhara ha uno stile un pochino diverso, però Samarcanda e Kiva. Invece, quello che si vede oggi è il frutto di un restauro allo stile sovietico, diciamo, che segue delle dinamiche un po' diverse da quelle che invece abbiamo in mente noi in Italia, no? Dove i restauri sono un'opera di conservazione, però dove non vanno completamente a ricoprire i segni del tempo, mentre invece per i sovietici il restauro è un'operazione che deve assolutamente andare a eliminare il passaggio del tempo. Per cui Samarcanda, se andate oggi, vi sembra come l'avreste trovata nel 900 d.C., fondamentalmente, devo dire, con un effetto abbastanza straniante. Però questa associazione tra il blu e la cultura islamica, soprattutto dell'Asia centrale, è così forte che in Cina si diffonde come termine per chiamare il colore blu, inizialmente quello che noi potremmo tradurre come il blu musulmano. Perché in Cina il colore blu arriva sempre dall'Asia centrale, quindi arriva attraverso i mercanti centroasiatici e i mercanti uiguri. In Cina si sviluppa una commistione molto interessante tra una forma culturale tradizionale che è quella della costruzione delle porcellane che sono in origine bianche con l'arte islamica perché gli Uiguri fanno questo mix tra queste appunto costruzioni di porcellane tradizionali bianche cinesi e ci portano dentro queste decorazioni floreali, quindi tradizionali dell'arte islamica che non può rappresentare l'essere umano di colore blu. Diventano poi delle porcellane molto ambite e infatti se pensate ai vasi, grandi vasi blu e bianchi, più che blu forse azzurri e bianchi, a motivi floreali che arrivano dalla Cina, li associate con alcune dinastie in particolare, no? Come per esempio quelli i vasi della dinastia Ming. Questo tipo di vasi sono dovuti a una commistione culturale che c'è stata tra appunto la cultura cinese Han e invece le popolazioni musulmane di lingua turca che arrivavano dalla zona dell'Asia centrale, che poi riprendono questa forma di porcellane e la fanno propria e quindi se la riportano in Asia centrale dove diventa a questo punto anch'essa una forma artistica locale. Una forma artistica locale di qualità molto peggiore perché i cinesi avevano una formula particolare per creare queste porcellane molto fini che gli artisti uiguri non riescono a copiare, non riescono a replicarla perfettamente, riescono a capire alcune dei passaggi da fare per ottenere la stessa consistenza, ma non tutte, e quindi le ceramiche dell'Asia centrale non sono della stessa qualità di quelle cinesi, però potete vedere che chiaramente sono state influenzate dalle stesse persone. Quindi risituiamoci storicamente perché altrimenti perdiamo dei pezzi. In Europa, fino al XVI secolo, ci sono soltanto due tipi di colore blu che riusciamo a produrre. Uno è il blu egizio e l'altro è il blu ultramarino. Il blu egizio è creato con un lapislazzulo artificiale. È una tecnologia che viene utilizzata dagli egizi, poi passata ai romani e si perde durante il Medioevo. Il blu ultramarino viene invece dal lapislazzulo naturale. Questa è una pietra di cui già gli egizi sapevano che fosse blu, la utilizzano nei gioielli, ma non sono a conoscenza della tecnologia necessaria per mantenerne il colore quando viene frantumata. Questa tecnologia arriva nel 500, inizia ad arrivare a spostarsi, diciamo, verso l'Europa, raggiunge Venezia nel 900 d.C. E sono poi i veneziani che fino al XIV secolo importano questa conoscenza nel resto d'Europa. Il blu ultramarino è carissimo perché i lapislazzuli sono difficili da trattare, sono molto cari e vanno cercati in Asia centrale e quindi viene utilizzato solamente per decorazioni particolari. In particolare si associa alla figura della Vergine Maria, quindi in Europa diventa anch'esso un colore associato alla religione, come nell'Islam, però nello specifico associato alla Vergine. E tra l'altro il blu, fino a questo punto della storia e poi continuando anche più in là, in realtà è un colore associato alle donne perché è il colore appunto della Vergine Maria. In Asia centrale è un colore associato alle donne. Le vesti blu vengono portate dalle ragazze che non sono ancora sposate, il blu poi va man mano digradando e quando invece siete delle donne anziane, matriarca della vostra famiglia, iniziate a portare le vesti e il velo bianco, come vi ho detto in passato, vi potete essere giocosamente chiamati Aksakal, persona con la barba bianca, se siete una persona la persona più anziana in una stanza. Nel XVI secolo quello che succede è che c'è una produzione troppo alta nel mondo di una pianta particolare che si chiama indigofera. Questa è la pianta da cui si trae l'indigo. L'indigo è un pigmento che viene utilizzato per tingere i tessuti di un bellissimo colore blu. L'indigo è molto economico, è molto facile da trasportare perché appunto è una pianta che viene fatta disseccare e quindi il colore blu, almeno come elemento tessile, si espande per tutta l'Europa e cresce così tanto nel suo essere disponibile che inizia a cambiare l'associazione culturale che abbiamo, perché se fino al XVI secolo il blu è un colore che si possono permettere solo i ricchissimi e non si usa molto per i vestiti perché non ne abbiamo sicuramente abbastanza e non c'è la tecnologia per utilizzarlo sui vestiti, quando invece si spande come tinta per tessuti, inizia a diventare associato con le persone povere. L'indigo infatti è una tinta per tessuti che dura tantissimo e quando si inizia a saper lavorare il cotone e a fare dei vestiti di cotone che siano particolarmente duraturi per gli operai, ha senso tingerli di blu perché il blu di indigo non stinge e quindi questo è il momento in cui inizia a diventare il colore dei jeans, per esempio, no, che sono fatti storicamente di cotone, inizia a diventare il colore delle divise dei marinai, quindi in una versione particolare, che è quella che poi viene chiamata il navy blue, e inizia a diventare il colore degli operai. Infatti in inglese gli operai si chiamano blue collar, le persone con i colletti blu, perché c'è ancora l'associazione tra questo colore e appunto le... i vestiti molto economici. E poi da lì iniziano anche una serie di altre associazioni abbastanza divertenti nel mondo, no, delle creazioni lessicali, perché il chiamare una donna che porta i collant blu diventa un modo nel 1800 in Inghilterra per chiamare le femministe, perché sono donne che vengono considerate poco alla moda, portare i collant blu è una cosa che le signorine d'alta classe non fanno e quindi ancora oggi blue stocking è una maniera con cui potete chiamare una donna a cui volete dire che è molto petulante, isterica, sappiamo quali sono le associazioni insomma fatte con le femministe. Mi spingerei ancora più in là a dire che comunque Elon Musk ha avuto una serie di uscite contro quelle che lui chiama le femministe dai capelli blu, per cui vorrei qui aprire un'argomentazione che forse questa associazione del colore blu con un certo tipo di donna che dà molto fastidio ai tech bro insicuri là fuori esiste ancora perlomeno, quindi io propongo che la femminista dai capelli blu sia la blue stocking del nostro secolo. Comunque, abbiamo parlato tantissimo, ci fermiamo per una pausa musicale e vi lascio con questa canzone bellissima di un gruppo russo che si chiamano Alla, russo forse uzbeko, direi sovietico sicuramente, che si chiama Le Cupole Blu di Samarcanda. Лазурью купало. Купола, купола. dar se duiu mi usta mai at puțin. Я идут вдаль такую, чтоб увидеть лик земли. И людям всем на удивление востока щедрый Дастархан, и вызывает восхищение великолепный Регистан. Купола, купола, купола, купола, голубые купола Самарканда, купола, купола, голубые купола Самарканда, купола, купола, голубые купола Самарканда, купола. Di tenere a mente questa obiezione che avevate sul colore del cielo, il colore del mare, che sono per noi associati molto con forza al blu e all'azzurro, come prova del fatto che blu e azzurro fossero particolarmente presenti, no, nell'ambiente attorno agli esseri umani. Sulla questione del colore del cielo e del colore del mare ci sono dei dibattiti linguistici che durano da anni, sono lunghissimi. Pensavo che sarei riuscita a fare questa puntata dicendovi qual è il consenso scientifico sulla terminologia di colore e sulla distinzione tra il blu e altri colori dello spettro freddo, e invece ho scoperto che negli ultimi 3 anni la ricerca su questo argomento si è riaperta furiosissima, e quindi in realtà le cose che io pensavo fossero il consenso scientifico non lo sono più. Abbiamo più informazioni oggi, però partirei da questo fatto. Non tutte le culture antiche che conosciamo in Europa catalogavano il cielo e il mare come blu. Una degli esempi più famosi è quella del greco antico. Se voi andate a prendere l'Iliade non classifica il cielo e il mare con il termine per il colore blu, e soprattutto non li classifica mai in maniera consistente. Da un certo punto di vista, cioè, uno dei fattori è la licenza poetica, no? Chiaramente Omero descrive quando il mare è in tempesta il mare color del vino, perché sta cercando, no, di restituirci, no, l'immagine di cosa si prova in quel momento a navigarlo, e quindi da un certo punto di vista c'è una certa licenza poetica, però fa strano che, insomma, il termine per blu non venga utilizzato all'interno dell'Iliade. Alcuni scienziati hanno ipotizzato che il motivo per cui all'interno di l'Iliade e poi anche di altre opere antiche il cielo e il mare non venissero rappresentati con il blu è che gli umani come specie hanno sviluppato la capacità di vedere i colori evolutivamente sopra un certo periodo di tempo. Quindi una delle teorie è che gli antichi greci non vedessero i colori che riusciamo a vedere noi e che quindi non riuscissero a distinguere il cielo come blu, perché il cielo tutto sommato potrebbe anche sembrarci, no, come una sfumatura di grigio se non riusciamo a vedere tutti i colori nello stesso modo. Questa è una teoria che, nel senso, è stata avanzata, è stata mantenuta per un po' di tempo, non è stata mai, cioè non penso che si possa neanche provare che non sia vera da un certo punto di vista, perché non è che possiamo testare queste persone, però sappiate che è una spiegazione possibile, cioè la possibilità che la capacità umana di vedere i colori si sia evoluta col tempo e quindi noi vediamo più colori di quelli che vedevano i nostri antenati. Chi supporta questa teoria, tra l'altro, la basa su una serie di, vabbè, di osservazioni anche aneddotiche, nel senso che comunque le persone che lavorano nel campo dell'arte tendono ad avere più capacità di vedere i colori, nel senso che cioè l'esposizione ai colori e l'acquisizione, no, delle tecnologie anche per descriverli, per capirli, comunque sembra che aiuti da un certo punto di vista, perlomeno nella capacità di riconoscimento, per cui una delle possibilità è pensare che l'ambiente in cui viviamo noi oggi è un ambiente molto più di stimolazioni visive molto più forti di quello dei nostri antenati e che quindi ci sia stata la possibilità che abbiamo sviluppato questa capacità di vedere i colori. E poi si basa anche questa teoria sul fatto che ci sia la possibilità di fare una mappatura tra l'evoluzione dei bambini e l'evoluzione umana. Quindi noi sappiamo che i bambini non vedono tutti i colori fin dalla nascita, no? Ma acquisiscono la capacità man mano che crescono. E quindi c'è la possibilità di pensare che questa evoluzione del bambino sia anche l'evoluzione della specie umana. Però, appunto, non tutti descrivono il cielo e il mare come blu e, interessantemente, esistono molte lingue del mondo in cui il termine per blu e il termine per verde non sono distinti tra di loro e quindi queste popolazioni parlano delle lingue in cui esiste un termine che i linguisti chiamano il blerde o il verde blu. Quindi pensate che, appunto, per noi è difficile immaginarcelo da parlanti di italiano, perché l'italiano è una lingua che poi parleremo di gerarchia dei colori. L'italiano è una lingua che ha non solo la distinzione tra blu e verde, ma per cui esiste una distinzione tra due tipi di blu. Questa è una situazione abbastanza particolare, strana nel contesto globale, però noi e i russi anche, per esempio, abbiamo la capacità di distinguere tra il blu e l'azzurro e consideriamo il blu e l'azzurro come parte del nostro vocabolario di base, cosa che per esempio non è vera per l'inglese. L'inglese utilizza soltanto il termine blu e unisce nel blu le due aree concettuali che per noi sono distinte. Quindi esistono lingue per cui questi due colori, il blu e il verde, sono chiamati con lo stesso modo. Per esempio, una di queste è il kazako, o perlomeno il kazako antico, perché nel kazako di oggi ci sono due termini, uno è kök e uno è jazil, quindi kök è blu, jazil è verde. Però si vede che ci sono una serie di termini in cui cose che dovrebbero essere verdi, diciamo, vengono ancora chiamate con il termine per blu. E la cosa che si pensa è che c'è stato un periodo storico in cui la distinzione non c'era ed è stata poi introdotta. E questo è, per esempio, il caso del tè verde, perché il tè verde in Kazakistan invece si chiama il tè blu. Altre lingue turciche hanno situazioni molto interessanti, simili. Una è il tuvano, che viene parlata nella zona dell'Altai. Il tuvano aveva questa distinzione molto interessante. Avevano il termine kök, sempre per dire blu e verde, ma se volevano distinguere in particolare delle sfumature di blu per qualsiasi motivo, per cui, per esempio, non lo so, ma state producendo un oggetto d'arte, vi serve dire che non volete la tinta verde, ma volete proprio quella blu. Quindi loro chiamerebbero ogni oggetto, no, nello spazio attorno a loro Cook, però poi il blu-blu si chiama Sukuk, dove Suk è il termine per acqua, per cui il verde dell'acqua, che è più simile al blu. Il Tuvano poi ha una situazione interessante perché nel XX secolo si sta standardizzando la lingua sotto i sovietici e i sovietici da bravi parlanti di indoeuropeo, dove c'è una differenza tra cioè i sovietici russi, tra il verde, il blu e l'azzurro, perché anche loro appunto hanno questa distinzione, decidono che assolutamente bisogna avere un termine per verde e fanno una proposta di prenderlo dal mongolo, per cui ancora oggi a Tuva, cioè in Tuvano, Kök diventa il termine per blu, e poi c'è questo termine che è esterno alla lingua, che è Nogon, che vuol dire verde, preso dal mongolo e buttato dentro al Tuvano, anche se ci sarebbe stato la possibilità di utilizzare la radice turca, che è quella invece del termine kazako, jazil. Il turco invece ha un termine che viene utilizzato, cioè il termine antico è gök, che come vedete viene sempre dalla stessa radice, ma poi specializza due parole. Una è lacivert, per dire che questa... Se vi ricordate quando abbiamo parlato dei lapislazzuli, vedete che ha la radice lasivert, persiana e araba, quindi questo è il blu scuro. E poi mavi, che è il blu chiaro, quindi simile al nostro azzurro, che viene dalla parola araba per acqua, che è ma'a, e quindi ma'i significa fatto d'acqua, quindi vedete ancora una volta che c'è questa associazione tra il blu e il blu dell'acqua, che è quello un po' più chiaro. L'arabo, un'altra lingua interessante, perché oggi l'arabo ha la distinzione tra blu e verde, ma nell'arabo classico il cielo viene chiamato al-Khadra, dove Khadr è il termine per verde, per cui il cielo non è il cielo blu, ma è il cielo verde all'interno della poesia classica araba. Oggi non è più così, perché c'è appunto una distinzione tra il blu e il tra il blu e il verde. E poi questa mancanza di distinzione tra il verde e il blu, appunto, abbastanza produttiva in un sacco di lingue dell'America, per esempio, no? C'è questa unione. La domanda è perché succede, cioè perché esistono lingue che decidono di specializzare la distinzione tra il blu e il verde e alcune che decidono di non farlo. Ci sono state tutta una serie di ipotesi che sono state testate nella storia, e recentemente c'è stato uno studio che ha cercato di studiare, di testarne tre insieme, e sono, diciamo... Hanno cercato di capire perché è interessante studiare questi termini, perché è interessante capire se i termini di colore sono dovuti a dei fattori biologici oppure dei fattori culturali. Cioè capire se il motivo per cui voi non distinguete il blu e il verde è, per esempio, perché non ne avete bisogno, perché nel vostro ambiente non dovete mai parlare del cielo, per dire. Oppure non lo distinguete perché non siete arrivati allo stadio tecnologico dello sviluppo delle tinte. Queste sono varie ipotesi. Ce ne sono in particolare tre che vengono testate. Una è quella dell'esposizione alla luce. La teoria dice che, l'ipotesi dice che se voi vivete in una zona del mondo in cui c'è molta esposizione alla luce, tendete a non distinguere il verde dal blu, perché alla lunga i vostri occhi si abituano a un certo livello di luminosità in cui la distinzione tra questi due colori praticamente diventa più difficile da vedere. Però fin da subito ci si rende conto che, cioè, ci sono delle parti del mondo in cui possiamo assumere che ci sia stata tanta luce storicamente, ma non solo c'è la parola per blu diversa dal verde, ma c'è anche la parola per azzurro, come per esempio l'Italia, no? L'Italia non è un posto dove direste c'è poca esposizione alla luce. Però la teoria dell'esposizione alla luce invece spiega molto bene il fatto che tantissime di queste lingue che non distinguono tra il verde e il blu si trovano all'interno di zone attorno ai tropici e all'equatore. Nel caso dell'Italia, della Grecia e di altre zone simili è stato ipotizzato che prende il sopravvento il fatto di vivere vicino al mare, quindi l'idea è che se la popolazione di cui stiamo parlando vive in un posto in cui ha senso parlare, no, molto a lungo di un oggetto dal colore tutto sommato blu come il mare, allora ha senso che voi sviluppiate il termine. Però abbiamo visto che nei tempi antichi invece non tutti avevano questa distinzione. E quindi la terza ipotesi, che a questo punto prende, cioè sovrascrive le altre due, è se siete a un certo stadio di sviluppo industriale, perché fondamentalmente se voi riuscite a concepire un colore in termini di tinta astratto da un oggetto, allora dovete avere la parola per descriverlo. Per cui l'idea è: ok, l'Italia è un posto che è esposto molto alla luce, non dovremmo avere la distinzione. Però viviamo sul mare e comunque abbiamo una cultura pittorica molto sviluppata e quindi è molto probabile che a un certo punto della storia della lingua, comunque qui stiamo parlando appunto di sviluppi, di termini che accadono su tempi lunghissimi, no? Di generazioni, generazioni, secoli, per cui molto probabile che l'incrocio di questi tre fattori nel nostro caso sviluppi, cioè determini il fatto che noi abbiamo la parola per blu che è diversa dalla parola per verde. E quindi alla fine di questo dibattito sulla differenza tra blu e verde abbiamo capito che esistono dei fattori biologici, come per esempio l'esposizione alla luce, e dei fattori ambientali, il punto del mondo dove vivete, e dei fattori sociali, come per esempio la capacità tecnologica di produzione delle tinte nella vostra società, e tutti questi fattori confluiscono nel determinare se la vostra lingua avrà un termine per il colore blu e un termine per il colore verde, oppure se le mette assieme. Però fin qui abbiamo parlato un po' dell'input della lingua, cioè abbiamo preso questi ingredienti da fuori di noi e li abbiamo mischiati e la nostra lingua produce dei termini di colore. Però c'è un'altra domanda che potremmo farci come linguisti, che è: per quale motivo ci servono i termini di colore? Quindi qual è esattamente la funzione che hanno all'interno della conversazione? I termini di colore, potete immaginare, noi li chiamiamo termini referenziali, aggettivi referenziali o denotazionali, nel senso che sono dei termini con cui voi potreste, per esempio, disambiguare tra due oggetti della stessa forma e dimensione solamente per il colore. E quindi qui si apre una questione interessante, perché se esistono lingue del mondo che non hanno la stessa quantità di termini di colore, allora vuol dire che queste persone non sono in grado di disambiguare tutti gli oggetti che gli servono. Possiamo pensare che magari le lingue del mondo sviluppino solo i termini di colore che gli servono. E qui i linguisti fanno negli anni 60 una scoperta interessantissima e scoprono che nelle lingue del mondo esistono dei termini di colore fissi in ognuna di queste lingue e che seguono una gerarchia di apparizione. Una gerarchia di apparizione che vi porta a sviluppare, ad aggiungere nel vocabolario della vostra lingua un termine di colore solo a un momento specifico. Nello specifico succede questa cosa qua: se la vostra lingua ha solo due termini, avete solo due colori nella vostra lingua, gli spazi che riferiscono sulla scala del colore sono i colori chiari e i colori scuri, il bianco e il nero, quindi avete solo questa distinzione. Nel caso che voi ne inseriate una terza, la terza distinzione che inserite è sempre il rosso. Questa cosa è non ci sono casi in cui non è stata provata, quindi se la lingua che voi state apprendendo ha tre termini di colore, questi tre termini saranno sempre bianco, nero e rosso. Al quarto posto sviluppate il giallo oppure il verde. E questi possono nascere in maniera, cioè una decisione a metà, 50-50. Al quinto posto dovete sviluppare il colore che non avete sviluppato prima, quindi il quarto e il quinto posto sviluppate il giallo e il verde. Al sesto posto arriva il blu. e arriva il blu e se l'avete quindi già distinto dal verde. E poi c'è uno stadio numero, lo stadio successivo che vi porta a sviluppare il marrone. Gli ultimi termini che voi aggiungete sono viola, rosa, arancione e grigio. Questa è una scala che viene modulata sull'inglese, ci sono 11 termini di colore di base, l'italiano ne ha 12 perché l'italiano distingue il blu dall'azzurro, così come il russo che distingue blu e azzurro. Però l'idea è che non ci siano lingue al mondo che sono su una fase di questa scala e non abbiano la parola prima, per cui se voi siete allo stadio del viola nella vostra lingua è difficile che non abbiate anche bianco, nero, rosso, giallo, verde, blu e marrone. Sembra che su un campione di 100 lingue studiate nel mondo più o meno questa teoria tenga, quindi ci deve essere una motivazione per cui sviluppiamo i colori in quest'ordine. Ci sono teorie diverse, quella originale, questo è uno studio fatto nel 69 da Berlin e Kay, cioè è culturale, nel senso Berlin e Kay vengono ricordati perché hanno questa teoria universalista dei colori, cioè loro pensano che tutte le persone al mondo abbiano questo sviluppo, in tutte le lingue del mondo si segua questo sviluppo. Ma una cosa che Berlin e Kay notano è che le lingue che tendono ad avere più termini di colore sono anche quelle più industrializzate, e quindi pensano che ci possa essere una correlazione tra la capacità di produrre tecnologicamente il colore e la capacità di parlare di questo colore, e quindi le culture europee che hanno uno sviluppo della cultura pittorica particolarmente avanzato sono quelle che hanno più termini di colore. Però questa teoria viene fortemente criticata negli anni, in parte perché lo studio di per sé viene fatto con una metodologia che oggi forse non replicheremmo nello stesso modo, perché viene fatto chiedendo a parlanti di tante lingue di dividere in gruppi 80 colori, 80 colori che sono segnati su dei dischetti di cartone, per cui le persone devono raggruppare questi colori attorno a quello che pensano essere un colore prototipico, e quindi si nota che per esempio gli italiani fanno 12 gruppetti, mentre parlanti di lingue dell'Amazzonia ne fanno 3 o ne fanno 4, e quindi si va a studiare questa cosa qua. Ci sono state svariate critiche. Alcune sono, devo dire, più serie di altre, secondo me. Una critica che viene fatta da parte di chi invece difende l'idea del relativismo culturale, quindi il fatto che i termini di colore si siano sviluppati in maniera peculiare, no, a tutte le culture del mondo, è il fatto che questo studio si basa solamente sullo studio della tonalità. Il colore solitamente ha 3 dimensioni, quindi quella che è la tonalità, che è quello che noi chiamiamo il colore in italiano, cioè quindi se io vi dico il blu è la tonalità, ma noi utilizziamo il termine colore, la luminosità che vi dice quanto è più vicino al nero o al bianco un colore, e poi la saturazione che vi dice quanto un colore è più spento o più vivo, quindi i colori con saturazione bassa sono i colori pastello, quindi voi avete, non lo so, il blu di Prussia è un blu che ha una tonalità di un certo tipo, che è la combinazione tra rosso, cian e verde, poi avete la sua saturazione e la sua luminosità. Nelle lingue europee, indoeuropee, quando parliamo di colore noi stiamo soltanto parlando della tonalità di solito, ma esistono tante lingue al mondo che invece hanno una combinazione tra luminosità e tonalità, per cui parlare di blu di per sé non ha magari senso, perché questa lingua distingue il blu acceso e il blu pastello, tipo. In realtà un esempio potrebbe essere il latino, perché il latino, se non ricordo male, ha 2 termini per il bianco, di cui uno è il bianco matte, quindi il bianco opaco, e l'altro è il bianco lucido. E quindi la critica a questa metodologia è che se in una lingua l'oggetto di cui state parlando è importante nel determinare il termine di colore, potreste non star percependo nella maniera corretta dove sono i confini tra le tonalità. Quindi lo studio di Berlin e Kay si basa sul chiedere alle persone di raggruppare questi colori. Devo dire, la cosa più interessante che scoprono però è il fatto che sembrano esserci dei colori prototipici, delle tonalità prototipiche, che sono di solito accettate tra tutti i parlanti della lingua, per cui se voi chiedete a degli italiani di distribuire questi 80 colori attorno a quello che ai 12 colori prototipici, più o meno la gente è d'accordo, quindi ci deve essere perlomeno un fattore, no, di agreement, di concordanza tra queste persone. E quindi pensiamo che esistano dei colori prototipici e il vantaggio di questi colori prototipici stia nella memoria, perché studi successivi fatti sulla distinzione tra i vari colori ci dicono che se nella vostra lingua esiste il termine per un colore, siete più veloci nel riconoscerlo. Quindi lo studio, per esempio, c'è uno studio famoso che paragona la velocità di reazione a delle task di distribuzione dei colori fatte dai parlanti russi, che hanno la distinzione tra blu e azzurro, e parlanti di inglese, che invece non hanno questa distinzione. I parlanti di russo, quindi l'esperimento funziona così: voi date due colori, due dischetti con sopra stampati dei colori a una persona e gli chiedete di dirvi se sono simili e se sono diversi, e poi di praticamente di associarli ad altri colori per andare a creare questi gruppi. I parlanti di russo sono molto più veloci a fare questa discriminazione tra colori nelle sfumature del blu di quanto lo siano i parlanti dell'inglese. E quindi pensiamo che il motivo sia perché nella loro lingua esistono due termini e quindi sono più abituati a vederli. Naturalmente, per testare se è vero che la lingua ha un effetto su questa capacità, dovete creare una situazione artificiale in cui le capacità linguistiche delle persone vengano diminuite, e quindi si rifà poi l'esperimento facendo una cosa che si chiama l'overload di informazioni, cioè rifate l'esperimento in cui però a questo punto chiedete ai parlanti di parlare, di dire qualcosa. Quindi, dato che hanno il centro di produzione del linguaggio impegnato, se fosse vero che la lingua è la discriminante nella velocità, nella performance dei parlanti, allora le persone che parlano russo dovrebbero avere la stessa velocità di quelle che parlano inglese, e infatti così succede. Dopodiché rifate l'esperimento una terza volta, questa volta avete un secondo tipo di overload cognitivo in cui invece di disturbare le persone facendole parlare introducete dei fattori di disturbo che invece siano visivi, e la velocità di risposta dei parlanti di russo torna a essere più alta di quella dei parlanti di inglese. E quindi quello che ci dice questo esperimento, che è stato replicato tante volte e regge, è che sembra che avere due parole per un colore vi dia un vantaggio cognitivo, vi permetta di discriminare discriminare ovviamente in senso positivo, in questo caso lo dico come riconoscere i colori che vi servono in maniera più veloce. Questo studio sulla discriminazione tra l'azzurro e il blu è una delle prove più forti che abbiamo a favore dell'ipotesi di Sapir-Whorf, che è una teoria molto malignata in linguistica, devo dire, e anche forse poco capita, esiste in due versioni, una è la versione forte e una è la versione debole. La versione forte è quella che dice che la lingua che parlate determina la maniera in cui voi potete sperimentare il mondo, per cui se non esiste un concetto nella vostra lingua, allora non lo potete sperimentare. Nessun linguista crede in questa versione, e tra l'altro forse non ci credevano già neanche Sapir e Whorf, ma diciamo la maniera in cui viene descritta dai loro detrattori. La versione debole invece dice che se esiste un termine, un concetto nella vostra lingua, allora è più facile che voi siate in grado di sperimentarlo, parlarne e accorgervene nella vita quotidiana. E secondo me questa è un'ipotesi interessante, ma ve ne parlo in realtà perché secondo me se siete persone che fanno attivismo, movimento, militanza, eccetera, e immagino tanta gente che mi sta ascoltando faccia parte di questa categoria, allora dovete sapere che parte della vostra, della vostra opera di creazione di un vocabolario per parlare di alcune esperienze funziona perché funziona secondo l'ipotesi di Sapir-Whorf debole. Cioè quello che voglio dire è che uno dei primi passaggi fondamentali quando un gruppo marginalizzato parla della propria esperienza e si muove per risolvere, no, per chiudere la discriminazione nei loro confronti, è quello di creare una maniera di parlare del problema. E quindi si creano nuovi vocabolari, si crea una maniera di parlare di alcuni fenomeni, perché finché non abbiamo i termini per parlare di questi fenomeni, non sono davanti ai nostri occhi. E questo ovviamente non significa che noi non li sperimentiamo. Le popolazioni afroamericane negli Stati Uniti hanno sperimentato il dolore della schiavitù anche se non avevano la capacità di parlarne, perché non che non avessero la capacità, però quando sono arrivate le Black Panther non è che magicamente la gente ha iniziato a capire cosa fosse la schiavitù, no? Le Black Panther hanno semplicemente sistematizzato una maniera di parlarne, hanno creato un vocabolario politico. Questo è quello che ha fatto il femminismo, questo è quello che hanno fatto i movimenti queer, questo è quello che fa chiunque, quello che hanno fatto i sindacati nella storia. E quindi penso che sia importante ricordarci che una parte dell'organizzazione politica passa dalla creazione di un vocabolario e dalla creazione di nuove forme linguistiche, perché avere nuove forme linguistiche vuol dire avere una capacità più facile di esprimerle, una capacità più facile di vederle e una capacità quindi a questo punto di, se abbiamo i termini per parlare del problema, una capacità di trovare la soluzione al problema. L'ipotesi di Sapir-Whorf è menzionata come critica pseudoscientifica a chi si occupa oggi di linguaggio inclusivo, perché le viene fatto notare che, dato che l'ipotesi di Sapir-Whorf è falsa, quella forte, allora il linguaggio inclusivo non ha senso, perché non è che usare le schwa elimina il sessismo dalla sera alla mattina. Adesso sapete che questa è un argomento fantoccio. Chi vi sta dicendo che la creazione di nuove forme linguistiche è inutile, lo fa perché vi sta mettendo davanti una critica a un'ipotesi che non è più accettata. Nella versione debole invece il lavoro che state facendo ha senso ed è stato studiato, è stato suffragato da diverse prove e argomentazioni. Questa è stata una puntata veramente poco lineare nel suo sviluppo. D'altra parte, tantissime delle culture di quest'area del mondo non sono convinte della linearità dello sviluppo temporale, quindi siamo in tema. Va bene, io vi lascio con una canzone che sarà molto ovvia visto il tema. D'altra parte, se volete playlist musicali con scelte non ovvie, non dovete venire all'Orda d'Oro, dovete andare a sentire Slick Chick su Radio Wombat. Per oggi mi fermo qui, ci sentiamo tra 2 settimane e un abbraccio a tutte e soprattutto a chi ci ha ascoltato privata della propria libertà personale. Ciao ciao! Chi vive in baracca, chi suda il salario, chi ama l'amore, i sogni di gloria, chi ruba pensioni, chi ha scarsa memoria, chi mangia una volta, chi tira il bersaglio, chi vuole l'aumento, chi gioca a Sanremo. signori, chi scava nei cuori, chi legge la mano, chi regna sovrano, chi suda, chi lotta, chi mangia una volta, chi gli manca la casa, chi vive da solo, chi prende assai poco, chi gioca col fuoco, chi vive in Calabria, chi vive d'amore, chi ha fatto la guerra, chi prende il 60, chi arriva agli 80, chi muore al lavoro, na na na na na na na na na na na na na. Ma il cielo è sempre più blu, il cielo è sempre più blu, ma il cielo è sempre più blu. Chi è assicurato, chi è stato multato, chi possiede la mutua, chi va in farmacia, chi è morto di invidia o di gelosia, chi ha torto ragione, chi è Napoleone, chi grida al ladro, chi ha l'antifutto, chi ha fatto un bel quadro, chi scrive sui muri, chi reagisce distinto, chi ha perso, chi ha vinto, chi mangia una volta, chi vuole l'aumento, chi cambia la barca, felice e contento, chi come ha trovato, chi tutto sommato, chi sogna i milioni, chi gioca d'azzardo, chi parte per bevuta in tasca un miliardo, chi è stato multato, chi odia i terroni, chi canta prever, chi copia baglioni, chi fa il contadino, chi ha fatto la spia, chi è morto di invidia o di gelosia, chi legge la mano, chi vende amuleti, chi scrive poesia, chi tira le reti, chi mangia patate, chi beve un bicchiere, chi solo d'istante.